Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera parliamo di design e pubblica amministrazione. Un accostamento, diciamo così, che di primo acchito fa pensare, non so, all'arredamento di un qualche ufficio pubblico o all'allestimento magari di un punto informativo. In effetti, diciamo, questo aspetto connesso alla forma degli oggetti, alla loro ergonomia, alla loro usabilità, ha un suo peso in fatto di servizi pubblici, ma non è il tema di questa sera. Questa sera siamo interessati a capire quale può essere il contributo dei designer nella progettazione di nuovi servizi della pubblica amministrazione. C'è anche un progetto europeo dedicato a questo obiettivo, il progetto EHDM, di cui parleremo. E a proposito di parlare, in linea con noi c'è Stefano Maffei, che è docente di design al Politecnico di Milano e neodirettore di un master che sta nascendo sempre al Politecnico, dedicato proprio al design dei servizi. Buonasera Maffei. Buonasera. Dunque, intanto possiamo partire forse da un dato abbastanza banale. Io non conosco, per esempio, nessun designer impiegato come tale nella pubblica amministrazione. In effetti la cosa che dice è abbastanza vera ed è un grave gap, handicap, dal punto di vista, diciamo, della nostra situazione italiana. In realtà ci sono molti esempi, non certamente di designer assunti, ovvero all'interno dell'amministrazione, ma di collaborazione tra designer dei servizi, invece pubblica amministrazione. Nel Nord Europa, in Gran Bretagna, ci sono molti casi di questo genere qui. Ecco, allora, che tipo di competenze porta un designer nel momento di elaborare nuovi servizi pubblici? Ci faccia capire. Allora, immaginiamo innanzitutto che la nostra vita quotidiana è intessuta di una offerta continua di servizi, dai trasporti, la salute, i servizi di comunicazione. Immaginare quindi un intervento del design dei servizi rispetto alla pubblica amministrazione vuol dire che sostanzialmente questa componente di progetto entra in relazione con attività del nostro quotidiano molto importanti, che sono alla base, credo, diciamo, della dimensione civica, civile, ma anche di formazione personale di ogni cittadino. Ecco, ma che contributo porta? No? Io vorrei dire, il designer è un signore che sostanzialmente ha acquisito una sorta di metodologia della creatività. A me piace pensare così, cioè sì, fanno un lavoro creativo, ma non è di tipo artistico, cioè non è che uno si mette lì e aspetta l'ispirazione. Assolutamente, È un metodo per essere creativi. Il punto qui è che se vogliamo innovare in modo radicale alcuni servizi pubblici, non basta fare piccoli aggiustamenti, ci vuole creatività. Forse è questo il punto. Allora, la creatività è certamente un pezzo della discussione. Credo che il design dei servizi integri le competenze di tanti tipi di design. Il design che si rivolge alla progettazione degli artefatti, che sono degli attivatori, diciamo, delle dimensioni del servizio, ad esempio uno smartphone, oppure entra, diciamo, in relazione con i luoghi in cui il servizio avviene, esempio un aeroporto, un ospedale, quindi, diciamo, i luoghi fisici, i touch point del servizio. Allo stesso tempo si occupa anche di un aspetto fondamentale, che è l'interazione tra utente, cliente e l'offerta di servizio. Esempio, la persona che ha il desiderio di viaggiare, che va in un aeroporto e deve in qualche modo prendere un aereo. E va a progettare questo processo, appunto, definendone alcune caratteristiche, che sono caratteristiche degli spazi fisici, degli oggetti materiali, ma anche degli oggetti immateriali. Esempio, il servizio web che può accompagnare la mia prenotazione, i feedback di trasparenza che magari il cliente deve ricevere quando la prenotazione è stata effettuata. Tutto questo diventa oggetto di progetto. Il design ha inventato anche degli strumenti specifici, il design dei servizi, per monitorare questi passaggi, il blueprinting, ovvero l'idea di mappare tutte le azioni, le interazioni tra il soggetto cittadino o utente e, diciamo, l'interfaccia del servizio, che può essere umana o tecnologica, è un esempio di questo processo. È uno degli strumenti metodologici che mettono in campo, che sono abituati ad utilizzare i designer. I designer dei servizi. E questi strumenti poi consentono di progettare un meccanismo di interazione soddisfacente e fluida tra utente e, in questo caso, dimensione del servizio. Abbiamo fatto un esempio rapidissimo, possiamo forse farne un altro. Io immagino, per esempio, anche recentemente c'è stata questa possibilità introdotta dal governo italiano di fare l'iscrizione dei propri figli a scuola. No? Questo è un esempio di interfaccia mediata di servizio che, dal mio punto di vista, aveva qualche difficoltà soprattutto nell'erogare feedback agli utenti, ovvero ho fatto l'operazione in maniera giusta. Allora, un intervento esemplare del design servizi potrebbe essere di aggiungere questa dimensione e far sì che le famiglie stiano tranquille rispetto abbia la certezza di aver completato correttamente la procedura. Tipico. è un esempio sì, tipico. Sì, il sì, secondo sì. aspetto, credo molto interessante, è quello in generale della potenziale di, oltre che di aumento della qualità dell'esperienza degli utenti finali, quindi dei cittadini, il potenziale di riorganizzazione dal punto di vista della produzione, dell'organizzazione del servizio della pubblica amministrazione in termini, come dire, molto semplici, risparmi. Sì. Risparmi in termini di tempo, come dire, aumento dell'efficienza e anche, come dire, sinergizzazione di attività e informazioni che la pubblica amministrazione in realtà già produce a disposizione, che potrebbe in qualche modo usare per implementare la qualità della sua offerta. Ecco, tanto per dare un'idea, c'è una ricerca forse un po' interessata, diciamo, però del British Design Council. Hanno calcolato che per ogni sterlina spesa nella progettazione del servizio pubblico se ne risparmiano poi 26. Dunque... Certo, questa è una dimensione, credo, assolutamente presente, diciamo, nei programmi di sviluppo strategico di molti paesi del nord Europa, e certamente che paese leader di UK, quindi del Regno Unito, dove questa dimensione, diciamo, del design a tutti i livelli, quindi a supporto, diciamo, delle attività tradizionali dell'impresa ma anche della pubblica amministrazione, è un cardine centrale della politica di sviluppo economico. Molto rapidamente, c'è un master che sta arrivando lì al Politecnico di Milano su questi temi. Ci dica qualcosa, poi lunedì ci risentiamo e facciamo anche un po' di altri esempi. Allora, ottobre 2013 parte il primo master in design dei servizi in Italia, erogato dal Politecnico di Milano con il contributo del consorzio Polydesign. È molto importante perché mette l'Italia all'avanguardia dal punto di vista dell'offerta di questo tipo di formazione nel mondo. Esistono esempi in Europa e negli Stati Uniti, ma diciamo sono veramente molto scarsi, stiamo parlando di 6-7 esempi di eccellenza a livello mondiale. Il Politecnico sta arrivando qui. Grazie Stefano Maffei, ci sentiamo lunedì. Grazie a tutti voi.